Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala. Subito dopo aver attraversato il Josephine, PM ebbe un presentimento. Avevano aspettato per quasi 2 ore che l'acqua defluisse e quando finalmente erano scesi nell'arroio, arrivava ancora fino al mozzo delle ruote e non era stato facile risalire la sponda del torrente per via delle pietre che franavano. Circa 100 metri più in là avevano sentito 2 colpetti di clacson e PM aveva sobbalzato senza un vero motivo, probabilmente solo perché quel giorno aveva i nervi a pezzi. «È Falk», disse Nora, che aveva ripulito il finestrino appannato. «Rispondigli». PM aveva dato anche lui 2 colpi di clacson. Così si salutavano nella valle. Di notte usavano i fari. Sembra diretto verso il fiume, con il furgone. Parlavano raramente di Falk per la semplice ragione che di lui non c'era niente da dire. Era appena uscito dalla sua casupola ed era salito sul suo furgone rosso. Probabilmente stava seguendo PM a breve distanza. Pur allevando bestiame, non era un rancher nel vero senso della parola. Era arrivato dal Middle West, dall'Ohio e dall'Illinois 3 o 4 anni prima per trascorrere le vacanze nel West insieme alla moglie, portandosi a rimorchio una roulotte argentata. Al suo paese lavorava in un'autofficina, forse addirittura come socio, visto che i soldi non gli mancavano. Lui e la moglie avevano realizzato il sogno di una vita: costeggiare il Pacifico da San Francisco al confine con il Messico. Erano rimasti a lungo con la loro roulotte all'imboccatura di un canyon. Lui era altissimo e robusto, lei piccolina e bruna. Un bel giorno si sparse la voce che Smiley aveva affittato a Falk qualche migliaio di acri e una casetta di 2 stanze, disabitata da tempo. Questo era più o meno tutto ciò che si sapeva di lui. La moglie, che detestava quel posto, se n'era andata. Da allora viveva solo. Badava lui stesso agli animali e si cucinava da sé. Si fa per dire cucinare, dato che dietro casa sua c'era sempre un enorme cumulo di scatolette. Pemberton, che se ne intendeva, sosteneva che aveva la stoffa del vero rancher. Il sabato sera, e solo sabato sera, Falk andava al bar di Tumacacori, pieno di messicani e indiani, e beveva fino a stordirsi, tanto che poi la domenica non riusciva ad alzarsi dal letto. Per qualche strano motivo, sulle prime, PM aveva avuto la sensazione che i 2 colpetti di clacson di Falk potessero non essere un semplice saluto. Va detto però che quello era il momento della giornata in cui i postumi della sbornia si facevano sentire di più. Aveva la testa meno rintronata che al mattino, ma avvertiva comunque un vago malessere che sul piano emotivo si traduceva in un senso di pessimismo e disgusto. Stava andando al fiume, certo, perché ormai era quasi l'ora di andarci, perché lo imponeva la tradizione, anche perché, dopo quanto era accaduto la notte prima, non voleva dare l'impressione di nascondersi. C'erano già 5 macchine sulla riva del fiume, che si era ingrossato per l'afflusso del Josephine e che gorgogliava, pieno di grosse bolle d'aria. Larry Noland era sceso dall'auto. Nella penombra, PM non scorse subito Lilla. Andò verso suo marito, deciso a fare il proprio dovere. «Mi scuso per quello che è successo ieri», disse. «Ero più ubriaco del solito, temo». E Larry, che aveva una guancia tumefatta, gli tese la mano, anche lui con lo sguardo vacuo, un po' imbronciato ma sincero. «Eravamo ubriachi tutti e due. Spero che Lil non me ne voglia». In quel momento la vide lì, accanto a loro. «Non parliamone più, PM, d'accordo? Siete 2 grandissimi stupidi. Nora è in macchina?» Proprio allora comparve il furgone rosso di Falk e ancora una volta, senza un motivo preciso, PM ebbe una sensazione sgradevole. L'ex meccanico scese e si avvicinò agli altri senza fretta, quasi titubante, perché non faceva parte del gruppo. Probabilmente era molto timido. Caddy non c'era, altrimenti si sarebbe di sicuro rivolto a lui. Nella semioscurità incappò nel vecchio Pop e gli parlò in tono impersonale, come per tastare il terreno. «Che strano. Oggi qualcuno è entrato in casa mia. Ti hanno rubato qualcosa, Falk?» «Non so se rubare sia la parola giusta, ma qualcosa hanno preso. Tanto per cominciare, hanno bevuto 4 birre che avevo in frigo e mi hanno lasciato le bottiglie vuote.» L'aneddoto suscitò ben poca ilarità. «Poi si sono portati via una bottiglia di whisky intera che tengo sempre di scorta e una salsiccia di fegato appena iniziata.» Pur non volendo prendere parte attiva alla conversazione, PM si era avvicinato. La signora Pop chiese: «A che ora è successo?» «Di preciso non lo so, sono uscito a cavallo verso le 11 per andare a recuperare 2 giumente nelle foothills. Quando sono rientrato dovevano essere circa le 4. Il Josephine aveva già l'acqua alta e non è stato facile farlo guadare agli animali.» «Quindi è successo fra le 11 e le 4? «E stamattina gironzolava intorno a casa mia. Si direbbe che stia tornando da queste parti.» Tutti guardavano di sottecchi PM. E lui, con aria indifferente, si allontanò in direzione della macchina da cui Nora non era ancora scesa. «Sei sicuro che non abbia rubato nient'altro?» «In casa non ci sono soldi.» «Non è che per caso ti ha preso un'arma?» «Non ho controllato, ho sempre una pistola nel cassetto del comodino, ma non ho mai dovuto usarla.» «Una pistola di grosso calibro?» «Sì, una Colt. Me la sono tenuta dopo servizio militare.» Ecco come stavano le cose poco prima delle 7 di sera, mentre cominciava a fare buio. PM non avrebbe saputo dire di preciso chi c'era e chi non c'era in riva al fiume, ma aveva riconosciuto il cappello chiaro, quasi bianco, di Pemberton e la grossa Chrysler degli Smiley. Quando si era seduto in macchina, Lil, che per tutto quel tempo aveva chiacchierato con Nora, era scesa. «Hai sentito?» chiese PM a Nora. «Della salsiccia? Sì.» I loro amici erano tutti abbastanza calmi, ma era prevedibile che avrebbero continuato per un pezzo a commentare l'evento. «Faremmo meglio a rientrare.» Nora approvò. Meglio evitare che li tempestassero di domande troppo circostanziate sul loro ospite. La casa era umida, piena di spifferi, e distinto, PM guardò in ogni angolo mentre si spostava da un interruttore all'altro per accendere tutte le luci. «Sei sempre dell'idea di andare a cercarlo a cavallo?» «Sì. Non dimenticare che ha con sé un'intera bottiglia di whisky. Prima mangia un boccone, dammi retta. Sei a digiuno da stamattina?» Capitava spesso a entrambi e restava il miglior rimedio contro i postumi di una sbornia. «Di cosa hai voglia?» «Di una fetta di prosciutto e di una birra.» Si sedette in poltrona e mentre Nora andava avanti e indietro e posava la cena su un tavolino, cominciò a sentirsi davvero male. «Sai che dovresti fare? Se uscissi adesso, incontreresti di sicuro delle macchine e tutti si chiederebbero dove stai andando. Senza contare poi che è buio pesto. La luna spunterà solo verso le 11. Magari nel frattempo il cielo si sarà sgombrato un po'. Fino allora, se fossi in te, prenderei un paio di aspirine e me ne andrei a letto. Così sarai fresco e riposato per il resto della notte.» Fu quello che fece. Si spogliò, mandò giù le aspirine, si coricò, regolò la sveglia che teneva vicino alla testata del letto e sprofondò subito in un sonno popolato di incubi. Continuò tuttavia a essere consapevole della presenza di Nora, che seduta accanto a una lampada fumava leggendo una rivista. Poi da fuori arrivò il suono di un clacson e si sentirono dei passi, delle voci. PM riconobbe la voce di Lil, ma stette ancora per un bel pezzo senza sapere se stava sognando o se la piccola Noland era davvero in casa loro. «Dorme?» «Sì, è sfinito. Cosa ti offro?» «Niente, mi fermo giusto un attimo. Sono scappata approfittando del fatto che sono tutti così su di giri da non accorgersi della mia assenza. Ci sono novità?» Quando ve ne siete andati la situazione era ancora abbastanza calma. Poi Lydia Pope ha attaccato a parlare, a dire che era da criminali portare nella valle gente simile e che si rifiutava di tornare a casa prima di aver saputo se quel tizio era armato o no. Le porte erano aperte. PM non dormiva più, ma non sentiva il bisogno di muoversi. Lo sai come vanno queste cose. Ognuno ha detto la sua. Smiley ha raccontato la storia dell'evaso di Florence, a cui hanno dato la caccia nelle foothills per 2 giorni e 2 notti prima di consegnarlo alla polizia. «Capisco», disse Nora. «E poi, quando mi sono resa conto che non avevano intenzione di salutarsi, ho proposto a tutti di venire da me. Non pensavo che si sarebbero rimessi subito a bere. Speravo invece di farli calmare. Sono ancora lì? Sì, hanno mandato Falk a casa per verificare se la pistola è ancora nel cassetto. È tornato? Sì, e la pistola è sparita. Falk è sicuro che stamattina c'era? Così sostiene. Sembra attendibile. Fra tutti è il meno esagitato. Dice, non è che uno se ha una pistola in tasca deve per forza sparare. Io, per esempio, quella pistola ce l'ho da 8 anni e non l'ho mai usata. E che cosa hanno deciso? Erano strane quelle 2 voci femminili, calme eppure preoccupate, che provenivano dal salotto illuminato mentre PM se ne stava sdraiato al buio nella sua stanza. Hanno chiesto consiglio a Pemberton. Sono quasi tutti deputy sheriff, ma Pemberton lo è da più di 30 anni, oltre a essere intimo amico del capo della polizia. Una cosa è certa, ha dichiarato. Se quest'uomo è un criminale o anche semplicemente un individuo pericoloso, abbiamo il dovere di impedirgli di nuocere. Ha telefonato a Nogales? Non ancora, non credo che lo farà. In fondo sarebbero tutti fieri di agire da soli, soprattutto se alla fine riuscissero ad assicurare alla giustizia un delinquente. A che punto erano quando te ne sei andata? Pemberton aveva appena telefonato a casa per farsi mandare Raoul. Perché Raoul? Perché è quello che conosce meglio ogni minimo anfratto della valle. Smiley ha messo a disposizione il suo cane. Era un enorme pastore tedesco, ringhioso come pochi, che si avventava contro lo sportello di tutte le macchine, minacciando di azzannarti il gomito. «I cani», mormorò Nora. «Pemberton porterà il suo alano e Lydia Pope quel suo orribile volpino. Non scherzare, si è offerta sul serio di prestarlo, sostenendo che ha più fiuto degli altri». «Ma mi hai chiesto a che punto erano. Stanno bevendo, ma non tanto da crollare. Parlano tutti contemporaneamente. Se ne stanno nello studio di Larry a fissare la foto aerea della valle e fanno a gara a dare pareri. Sembrano i preparativi per una battuta di caccia. Andranno a cavallo? Non so cosa decideranno. Dicevano che 2 macchine avrebbero perlustrato le strade, mentre i cavalli avrebbero ispezionato i sentieri e i canyon. PM fu tentato di alzarsi dal letto. Per fortuna non lo fece, perché altrimenti Lil forse non avrebbe detto quello che poi confidò a Nora. Che cosa pensa di fare, PM? Davvero non avete idea di dove sia quell'uomo? No, sinceramente no. Oggi pomeriggio siamo arrivati fino in fondo alla statale. A quanto pare è passato da lì. Ma se quello che dice Falk è vero, deve essere tornato da queste parti. Se solo non avesse preso quella bottiglia. Già. PM non proverà a ritrovarlo? Non lo direi a nessuno, vero? Gli ho consigliato di dormire un paio d'ore, perché poi ha intenzione di andare a cercarlo a cavallo. Ma dove? Un po' dappertutto. Ora tocca a me dirti una cosa. Abbassò la voce, ma non abbastanza perché PM non riuscisse a sentire quasi ogni parola. Abbiamo parlato molto, io ed Eric, ieri pomeriggio. Lo so. La sua idea fissa era di attraversare il fiume al più presto. Secondo lui, PM non stava facendo tutto il necessario per aiutarlo. Continuava a passare mentalmente in rassegna ogni mezzo possibile e immaginabile. E tu cosa gli hai detto? Che forse un modo c'era e che comunque il primo punto da cui si sarebbe potuto guardare il fiume era quello. Quale? Il passo della mula nell'ultimo canyon. Hai presente? Una volta, quando ero piccola e il fiume era in piena, mio padre si è ammalato. Il medico, per telefono, gli ha prescritto una medicina che bisognava per forza prendere a Nogales. E un cowboy ci è andato. L'ho raccontato a Eric. Gli ho spiegato che, qui dove siamo noi, il fiume è alimentato dalle acque di ben 5 canyon, perciò basta un piccolo temporale perché si ingrossi. Nel passo della mula, invece, confluiscono soltanto le acque provenienti dal Messico e quelle di un unico canyon. Non solo, ma siccome è più a monte, quando qui l'acqua è ancora alta, là è già bassa. E sai con esattezza dov'è questo posto? Una volta ci sono andata a fare un picnic con mio padre. Bisogna superare i campi di chedi, che all'epoca non esistevano. Non c'è una vera e propria strada, ma un sentiero che costeggia le pendici della montagna. È grosso modo dove Pemberton ha ucciso il puma di cui parla sempre. Alla fine si arriva al fiume in un punto in cui il guado è meno pericoloso. Da lì è riuscito a passare il cowboy di mio padre. A cavallo? Sì. Agli altri non ne hai parlato, vero? Sei matta. Meglio se torni a casa, Lil, e non dire a nessuno che sei venuta qui. Secondo te c'è il rischio che si metta a sparare? Non lo so. PM andrà laggiù. Vedremo. Prima di incamminarsi, Lil baciò Nora, cosa che faceva di rado. Sai, Nora, non c'è stato niente fra noi e mai ci sarà. Poi aggiunse, a voce molto più bassa, con lui non era per quello. Dopo aver chiuso la porta e aver sentito la macchina allontanarsi, Nora si voltò e vide PM sulla soglia della sua camera. Hai sentito? Lui aveva ancora gli occhi gonfi del dopo sbornia e i lineamenti sfatti, soprattutto per via delle botte che si era preso. Ma stranamente il suo sguardo era fermo, quasi un po' fisso. A differenza di quanto ci si sarebbe potuti aspettare, non si diresse subito verso il mobile bar. Sai dov'è? Chiese lei. Più o meno. Sono già stato in quella zona. Credo che potrei ritrovare il posto. Pensi che sia lì? Se Lil gli ha raccontato quella storia, è facile che tenti di andarci. E se fosse già passato dall'altra parte? Probabilmente erano appena le 11 quando Donald era entrato in casa di Falk. Da allora poteva benissimo aver cercato di attraversare il fiume. Se per un caso eccezionale c'era riuscito, nulla impediva che ora fosse a Nogales. Sotto quella pioggia battente era tutt'altro che impossibile oltrepassare la barriera senza farsi notare dalle sentinelle. Supponi che sia lì, non c'è modo di saperlo. Puoi sempre telefonare. Telefonare a Mildred, naturalmente, che si sarebbe appesa all'apparecchio, con i 3 figli intorno e con la signora Espinosa pronta a spiare dietro una porta. E che le dico? Niente, ovvio. No, era impensabile. A meno che Donald non avesse realmente passato il confine, quella chiamata avrebbe avuto l'effetto di sconvolgerla. Non poteva certo dirle che suo marito era fuggito, che forse era ubriaco, armato, nascosto in qualche anfratto della valle e che un gruppo di individui, anche loro armati e guidati da cani, stava organizzando una caccia all'uomo e presto si sarebbe lanciato al suo inseguimento in auto e a cavallo. Intanto stava succedendo qualcosa che da quando si erano sposati non era mai accaduto. A un certo punto PM era tornato in camera sua e Nora lo aveva seguito con grande naturalezza per non interrompere la conversazione. Lui aveva cominciato a vestirsi, si era infilato un paio di stivali asciutti e una camicia di lana, poi da un cassetto aveva preso gli speroni che usava di rado. Che ore sono? Le 10:30. Fra mezz'ora sorgerà la luna. Il cielo non è del tutto coperto, non piove. Ficcò qualche sigaro nella tasca della camicia e si assicurò di avere fiammiferi e un fazzoletto. Meglio così. Dai Nolan ci metteranno ancora un po' a decidersi. Poi, quando si saranno decisi, ognuno dovrà andare a recuperare il proprio cavallo. Prendi la giumenta? Lui esitò un attimo. La giumenta era più agile dello stallone, che però era più pesante e soprattutto più alto. Prenderò Pick. Non aggiunse altro sull'argomento, che tuttavia era cruciale. Quelle due parole, prenderò Pick, erano infatti gravide di significati. Non avevano più niente da dirsi e non avevano neanche più niente da fare lì. Eppure PM cincischiava, perdeva tempo. Aprì il frigorifero, prese una birra e fece per aprirla. Ma non era di birra che aveva voglia. Ti conviene portarti dietro un po' di whisky? Nel mobile bar ce n'era una fiaschetta piena. Fece il gesto di infilarsela in tasca, ma cambiò idea. La stappò e ne mandò giù subito un bel sorso. Non per ubriacarsi né per piacere, ma perché ne aveva davvero bisogno. Adesso il momento era arrivato. Rimanevano soltanto i saluti. Senti, Nora. Sì? Se non si sa mai, capisci, vorrei che dessi tutto quello che ho a sua moglie e ai bambini. Non ti porti la pistola? PM ebbe un momento di esitazione. Non tanto per lui, ma per gli altri, che potrebbero lasciarsi prendere dal panico. No. Ciao, Nora. Ciao, PM. Non si baciarono. Non si baciavano mai. Per un attimo rimasero lì, impacciati, l'uno di fronte all'altro, accanto alla porta. Alla fine PM diede un colpetto sulla spalla a Nora, un po' come avrebbe fatto con il suo stallone. Cerca di dormire. Forse quando si saranno decisi, Lil si sentirà sola e verrà da te. Andrò io da lei. Se quando torni non mi trovi, vorrà dire che sono lì. PM sellò il cavallo nella penombra della stalla. Da lontano poteva scorgere le luci del ranch dei Noland. Gli sembrava di sentire dei nitriti e delle voci. Davanti alla porta di casa si fermò. Nora. Sì? Passami la pistola, non si sa mai. Quella nella fondina attaccata al cinturone. Dietro le nuvole si intravedeva la luna. Si strinse il cinturone in vita e uscì quasi subito dalla strada per non passare accanto alla villa dei Noland. Quando si voltò, vide le luci di casa sua. Conoscendo Nora, era sicuro che ora si era accesa una sigaretta ed era andata a rannicchiarsi in poltrona, dove con un gesto automatico aveva allungato il braccio per prendere una rivista. Solo quando fu abbastanza lontano dalla zona abitata, si accese un sigaro e lanciò il cavallo al piccolo galoppo, perché doveva percorrere più di 15 miglia prima di arrivare al passo della mula. Sentiva già i cani che abbaiavano. Forse era la signora Pope sulla soglia dei Noland ad aizzarli. Thank you.